America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero, e soprattutto da New York, buon Natale. Siamo arrivati al 25 dicembre, oggi Natale, molti di voi probabilmente staranno andando per il grande pranzo natalizio, alcuni di voi saranno a casa a goderselo. Io poco fa, nella mattinata, vi ho fatto una trasmissione speciale di una grande festa natalizia americana, o meglio prenatalizia, cioè la festa del Kennedy Center, dove vengono dati questi premi a dei personaggi importantissimi, da Tom Hanks a Sting, e devo dire è stata una grande festa americana. Mi sembrava giusto però, dovendo fare la puntata di oggi, che è la puntata ufficiale del Natale, portarvi invece un augurio che non fosse solo americano. E siccome ho la fortuna di essere a New York, ho l'onore di poter frequentare le Nazioni Unite, voglio portarvi il saluto diretto per un buon Natale, per un augurio di buone feste, del segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon. Around the world, the people suffer from poverty, money discrimination and abuse. Journalists travel to the front lines of human misery. They risk their lives to report the truth. I denounce all persecutions against journalists. Ban Ki-moon ha partecipato a un'altra festa prenatalizia, era qualche giorno fa, una festa, devo dire, anche con molto sapore italiano, perché è stata organizzata dall'Associazione dei Corrispondenti dei Giornalisti delle Nazioni Unite, che prevede tra l'altro un premio per i giornalisti che nel corso del 2014 hanno compiuto delle imprese eccezionali. È stata una serata, premetto, molto bella, ma vi dicevo caratterizzata da qualche tocco italiano, perché intanto si teneva dal Cipriani davanti a Grand Central, e quindi è un locale a tutti gli effetti, anche se opera in America, ma di matrice italiana. Ma poi perché il chairman della serata, il presidente della serata, era Giampaolo Pioli, nostro collega, che è stato anche presidente dell'associazione, e perché la Fiat ha donato, ha messo in palio, perché c'è un sorteggio con dei premi, e pensate, questo sorteggio della 500 è andato a una giornalista francese, e soprattutto c'è stato Andrea Bocelli. E visto che siamo a Natale, e visto che Andrea Bocelli ci ha deliziato tutti con una straordinaria interpretazione dell'Ave Maria, credo che sia assolutamente appropriato che ve la faccia sentire. Voglio dirvi che questa festa delle Nazioni Unite è sempre molto divertente, molto entusiasmante. Il segretario generale poi si prende in giro, c'è stato un filmato in cui lui faceva finta di partecipare a uno show televisivo americano per cantare. Questi dicevano: ma no, tu canti malissimo, vattene, vattene, vattene. E lui, così come uno scolaretto che poverino non aveva recitato bene la sua lezione, se n'è andata. Devo dire, molto spiritoso. Momento di grande emozione quando ci sono stati i premi, momento di grande emozione quando questa canzone veniva eseguita da Bocelli. Pensate, dietro di me c'era l'ambasciatore americano alle Nazioni Unite, Samantha Power, che tra l'altro è una donna molto bella, molto intelligente, molto aggressiva, molto dura anche considerando il lavoro che fa. Ebbene, aveva gli occhi chiusi e le mani giunte, concentrata su questa splendida interpretazione di Bocelli che vi faccio sentire nel finale. E Ecco, vi dicevo, un momento emozionante anche quello dei premi. I premi li hanno avuti vari giornalisti, ma in particolare lo ha avuto un giornalista italiano, cosa ovviamente importante per noi come italiano, sapere che un nostro giornalista viene riconosciuto dalle Nazioni Unite, in particolare devo dire per me, perché questo giornalista non è soltanto un amico, ma è una persona che ha cominciato la sua avventura americana, il suo biglietto di sola andata, proprio qui con noi, in questa redazione. Francesco Semprini, inviato della Stampa. Francesco, buongiorno. Buongiorno e auguri di Buon Natale a tutti gli ascoltatori di America 24. Grazie Francesco, auguri di Natale soprattutto a te. Devo dire, sotto l'albero hai trovato un premio giornalistico meraviglioso. Senza dubbio è un Natale ancora più felice per quanto mi riguarda e penso anche un po' per quanto riguardi il gruppo dei giornalisti italiani che sono qui negli Stati Uniti e che seguono le Nazioni Unite, essendo stato il primo riconoscimento a un media nazionale del nostro paese di questo premio che è arrivato ormai alla 19ª edizione. Ecco, allora scusami Francesco, ma devo chiederti una cosa, perché tu sei arrivato qui con noi, tu sai che noi facciamo qui una puntata di sola andata, che tu hai preso un biglietto di sola andata. Hai preso un biglietto di sola andata per venire in America e guarda caso sei capitato con noi, che qualcuno dice che la nostra redazione è un po' una gabbia di matti, eppure ti sei buttato nel lavoro partendo praticamente da zero. Mi ricordo, hai cominciato, erano delle giornate così invernali dove faceva buio molto presto. Ecco, avresti detto allora che pochi anni dopo saresti salito sul podio delle Nazioni Unite per ricevere un premio dal segretario generale dell'ONU? Mario, non era nemmeno nelle più rosee aspettative, ovviamente per me che iniziavo a muovere i primi passi da giornalista in questo strano ma divertentissimo laboratorio che era INC, un ambiente molto stimolante in cui ho avuto la fortuna di lavorare con molti giovani, e questo garantiva un po' la freschezza e la goliardia dell'ambiente, ma allo stesso tempo il privilegio di scrivere fianco a fianco, scrivania a scrivania, con tanti grandi professionisti che si sono alternati nel corso del tempo. È stata per me una palestra di giornalismo, ma anche una palestra di vita molto importante, che mi ha in qualche modo, come si usa dire in gergo militare, formato nell'anima e nella mente. Ecco Francesco, qui stiamo entrando in memory lane, ma è fantastico, bellissimo, ti ringrazio per queste parole, ma parliamo del premio. Perché hai avuto questo premio? Raccontiamolo ai nostri ascoltatori, perché hai rischiato molto. È stata un'avventura, come spesso accade in questi frangenti. In occasione dell'offensiva degli jihadisti a Mosul nella prima metà di giugno, ho pensato di andare in Iraq e di seguire dal vivo quella che era una delle crisi peggiori di questi ultimi anni. Quindi mi sono spinto, diciamo, insieme ai peshmerga, come si dice in gergo tecnico, embedded, vicino a Mosul, e quindi insieme all'UNICEF, ai convogli UNICEF, ho seguito il flusso degli sfollati, quindi soprattutto le minoranze cristiane, turcomanne, eccetera, che cacciate dall'ISIS, dalla città di Mosul, la seconda città più popolosa dell'Iraq, trovavano rifugio verso il Kurdistan. Francesco, devo dire però anche un'avventura pericolosa, ma dico, hai fatto attenzione, spero. Sì Mario, ovviamente come mi è capitato già in passato per questo tipo di esperienze, di reportage giornalistici, è un'avventura, è un servizio che è stato studiato e pensato nei minimi dettagli, anche, diciamo così, ritagliato in un quadro che garantisse la sicurezza minima necessaria. Il fatto di essere stato embedded con i peshmerga e poi, insomma, in qualche modo inquadrato alle fine dell'UNICEF mi ha garantito quel minimo standard di sicurezza che ti permette, insomma, di svolgere un lavoro sicuramente avventuroso, ma comunque senza dover rischiare più di tanto. Ecco Francesco, scusa, in questo momento il mio pensiero va un po' a quello che tu mi raccontavi, a questi sfollati. Tra questi sfollati c'erano molti cristiani perseguitati dall'ISIS, perseguitati da questi fanatici islamici. Oggi è Natale e chiederei di dirci come immagini che questi sfollati stiano vivendo questo loro Natale in questi campi profughi. Molti di questi tu li hai visti e li hai conosciuti. Sicuramente in maniera drammatica, ma allo stesso tempo devo dire che ho avuto modo di conoscere questi cristiani, che sono soprattutto siriaci, che per la loro storia sono molto coriacei, molto forti. Sicuramente è un Natale drammatico, un Natale lontano dalle loro case, spesso anche dai loro cari, che sono dovuti scappare in direzioni opposte e diverse, ma è sicuramente un Natale per loro di speranza, perché queste sono persone che comunque mantengono quella speranza di poter ritornare nelle loro città, nelle loro case, di poter riacquistare quella pace e soprattutto quella serenità e quel rispetto che non hanno avuto in questi ultimi sei mesi. E quindi io ritengo sì un Natale, sicuramente un Natale più difficile, ma anche un Natale di speranza, e questa speranza forse è riposta anche un po' nella comunità internazionale. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a seguirli su america24.com, seguitemi su Twitter @MarioPlatero ed eccoci alla canzone del giorno. Siamo a Natale e dunque, beh, mi sembra giusto farvi ascoltare un classico natalizio. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, you go down in history. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye, get going e soprattutto buon Natale a tutti. America 24.